Fabrizio Intonti. Certo che noi siamo proprio strani, dico noi come periodo storico, come società in generale in questo momento, no? Siamo strani perché cerchiamo sempre di andare in posti dove vanno anche gli altri, no? Giudichiamo i ristoranti e i locali positivamente se c'è la fila lunga fuori. Abbandoniamo i piccoli paesi per andare a vivere nelle metropoli. Cerchiamo lavoro nelle grandi aziende dove abbiamo migliaia, centinaia di colleghi con gli stessi orari, gli stessi percorsi. E poi sogniamo la solitudine. Vogliamo la spiaggia isolata, la strada sgombra, l'isoletta dove non c'è nessuno, l'ampio parcheggio con la possibilità di scegliere la metto qua o la metto là. No, la metto là. No, guarda, la metto là. E vogliamo stare da soli, lo diciamo, vorrei rimanere un po' da solo. Poi però appena siamo soli non sappiamo che fare e cominciamo a telefonare uno, a telefonare un altro, ma usciamo, andiamo a cercare un po' di gente e chattiamo e fammi controllare se c'è qualcuno su Facebook. Insomma, un circolo vizioso, non siamo mai contenti, però magari non siamo tutti così. Ad esempio oggi vorrei sapere che rapporto avete voi con la solitudine. La temete? L'amate? La solitudine vi ricarica? Vi spaventa? Quando è che vi siete presi un po' di tempo per fare una cosa da soli? Quando è che avete compiuto un'impresa, un'avventura, piccolo o grande, da soli? Ecco, noi oggi parliamo di questo: avventure, viaggi e imprese solitarie. Chi parte senza nessuno al fianco perché tanto sa già che per strada troverà tutto quello che gli occorre oppure troverà se stesso. 800 24 00 24. Ho vissuto molto. E ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felice. Una vita tranquilla, appartata, in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. E poi, al di sopra di tutto, tu per compagna e dei figli, forse. Cosa può desiderare di più il cuore di un uomo? Eccola qui la contraddizione rispetto alla solitudine in un film di culto per gli amanti del viaggio in solitaria come Into the Wild, in cui questo protagonista partiva da solo per abbandonare la civiltà, la famiglia, tutto quanto, e poi alla fine cosa pensava? Pensava che comunque ci vuole qualcuno con cui condividere le cose che si vedono e si scoprono. È una contraddizione? È una contraddizione solo apparente? Boh, ditecelo voi, 800 24 00 24, oppure commentando su Facebook. La nostra pagina si chiama come il programma Giro di Vita. Questo è il programma che tutti i giorni vi racconta storie di chi ha cambiato vita o come oggi di chi compie comunque delle imprese, si prende dei momenti per fare qualcosa di straordinario. Io sono Achille Corea, questa è Radio 24 e oggi parliamo di chi parte in solitaria, di chi fa qualcosa da solo, in solitudine, e come si fa, come ci si organizza. Cominciamo a chiederlo ad Alessio. Pronto, Alessio? Pronto, buon pomeriggio. Benvenuto. Alessio, grazie. Che cosa stai facendo tu in questo momento, in questi mesi? Allora, diciamo dal 1 agosto sono partito dalla città di Pescara, precisamente dal monumento a Flaiano, per raggiungere la città dell'Aquila. Solo che sbagliando strada, sto percorrendo l'intera penisola, e comprese anche le due isole, tant'è che al momento mi trovo a Bosa Marina, ovvero in Sardegna, sulla costa ovest della Sardegna. Che mezzo usi? Utilizzo una Vespa Gran Turismo del 1968, un'annata simbolica, da lì la Big Generation, eccetera, eccetera. La domanda è perché? Perché? Beh, non c'è un perché su un'avventura del genere, è difficile, cioè ci sarebbero mille perché, ma al momento non me ne viene in mente nemmeno una. E quello forse è il perché. Ci dici un po' che tipo di vita hai lasciato per fare questa cosa? Quanto ci metterai? Qual è la tua stima? Allora, stimo un mese e mezzo più o meno per fare l'intero itinerario. E per te cos'è? Una vacanza, un momento sabbatico, un rito di passaggio? Sì, quasi direi proprio un rito di passaggio, perché ho terminato gli studi all'incirca un mese fa. E quindi, cioè, prima di terminare gli studi ho organizzato questo viaggio, le varie tappe, anche perché più di 300 chilometri con un mezzo del genere è impossibile farli proprio fisicamente parlando. Come fai con le spese? Dove dormi? Come ti organizzi? Allora, sì, per dormire ho diversi amici sparsi, fortunatamente sparsi per tutta l'Italia, poi campeggi, e poi sono iscritto alla community Couchsurfing, praticamente una comunità online dove gli utenti ospitano dei perfetti sconosciuti, e grazie a loro io sono riuscito a visitare città come Messina, San Giovanni Rotondo, e niente, questi due al momento sono gli unici che mi hanno ospitato e mi hanno fatto visitare la città. Senti un po', ma tu effettivamente sei da solo in giro, oppure alla fine c'è la gente che conosci, ti riempie le giornate? Allora, le giornate mi riempiono non solo la gente che conoscevo già prima, ma la gente che incontro per strada, perché questa è la cosa più bella del mio viaggio, è l'imprevisto continuo. E l'imprevisto continuo può essere anche, come mi è accaduto in passato, chiedere l'indicazione a un autista di un pullman nell'entroterra calabrese e praticamente perdermi anche per colpa sua, praticamente, perché mi ha dato delle indicazioni sbagliate. Vabbè, era un perdersi per ritrovarsi, o poi sei rimasto, hai dovuto, diciamo, ricorrere all'aiuto di qualcuno? No, assolutamente, anzi, diciamo che riesco a cavarmela benissimo da solo, con cartine e soprattutto domandando in giro, quindi... Senti, tu hai un sito che è l'italiasevespa.it, io vedo che tu sei iperconnesso, ma questa cosa di avere un blog che aggiorni, di avere Twitter, di avere il telefono, non toglie qualcosa questa solitudine? Quanto tempo dedichi a tenere i contatti in questo modo? Allora, dedico credo una mezz'oretta al giorno, perché praticamente io trascrivo ciò che ho scritto nel mio block notes che porto dietro, e praticamente lo trascrivo all'interno del blog, utilizzando anche, diciamo, un linguaggio perfettamente strutturato per internet, quindi breve, simpatico, con una fotografia, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo, è il tuo taccuino. Se Chatwin avesse fatto il giro adesso, avrebbe avuto un blog. Senti, chiudiamo parlando del tuo bagaglio, seppur metaforico. La valigia e la zavorra. Alessio, che cosa ti porti dietro in questo viaggio e che cosa hai lasciato a casa? Allora, mi porto dietro il famoso block notes nero di Hemingway, regalatomi in Germania da un'amica, dove trascrivo ciò che mi accade quotidianamente. E invece qualcosa di intangibile che porto sempre con me è la fiducia, ovvero la fiducia verso un mezzo che ha più di 40 anni, verso la strada, la fiducia anche verso gli altri e soprattutto verso me stesso, che devo affrontare questa avventura. Questo è essenziale. Cosa lasci? E invece lascio a casa il quotidiano nel senso sia come stampa, come quarto potere, perché non voglio informarmi su ciò che sta accadendo in Italia per amare questa nazione, e invece anche quotidiano anche come quotidianità, quindi abitudini, praticamente cambio abitudine ogni chilometro che passa, cambio abitudine. Ho capito. Va bene, Alessio, noi ti salutiamo. Ti possono seguire su l'italiasevespa.it. Buon viaggio, buona Vespa a te. controindicazioni. Questo stile di vita è sconsigliato se vi abbassate a chiedere un'indicazione stradale solo quando finite nel nulla, circondati da sinistri ululati. L'unica solitudine che amate è quella di Laura Pausini. Avete paura che ogni persona a cui chiedete di farvi una foto scappi con la vostra macchinetta. Per voi il silenzio è un'apostrofo rosa tra uno squillo e un pronto. La mamma vi ha detto che non bisogna dare confidenza agli sconosciuti e voi le avete creduto. 800240024 è il nostro numero di telefono per parlare in diretta con noi e per raccontarci una vostra impresa solitaria, un vostro progetto di viaggio solitario. E però insomma non è una cosa facile, posso capire insomma che è affascinante, ma sicuramente mette anche un po' di paura. E allora, oltre ad aver sentito un ragazzo che lo sta facendo, un viaggio in solitaria, e ne sentiremo anche un altro dopo con un mezzo praticamente uguale, e sentiamo anche chi di viaggi e imprese in solitaria se ne intende, ma davvero tanto. E se lo facessi io? A Giro di Vita abbiamo il piacere di avere al telefono il navigatore solitario Alex Bellini, benvenuto. Buongiorno a tutti e ai vostri ascoltatori, eccoci. Allora Alex, tu hai compiuto diciamo molte imprese, una che è una traversata a remi, l'hai descritta in un libro che si chiama Il Pacifico a remi, i miei 300 giorni da solo sull'oceano. 300 giorni da solo, come si fa? Sono veramente tanti, adesso che ci penso devo ammettere che ogni tanto questo numero insomma, mi fa andare fuori di testa. Come si fa? Con grande pazienza, con la voglia di non arrendersi alle piccole stupidate, anche la fiducia di cui parlava Alessio nella telefonata precedente, la fiducia in se stessi nella propria volontà, nei propri sogni, nella possibilità di riuscirci, ecco. Senti, io vedo che tu hai fatto diciamo questa traversata da Lima a Sydney, e quindi noi potremmo pensare è semplicemente tra virgolette una persona abituata al mare eccetera, però tu hai fatto la maratona nel deserto del Marocco, la 600 km a piedi con una slitta in Alaska, cioè tu sei un esperto di solitudine e impresa in solitaria in qualsiasi condizione. Qual è diciamo la cosa che unisce tutte queste imprese? Beh, apparentemente niente, perché passiamo da un elemento all'altro, da condizioni molto differenti tra di loro, però se ci fermiamo un attimo e riflettiamo, le cose che li unisce è il contatto diretto con la natura, che è straordinario sia in mare che in Alaska che appunto in Africa. Quello che piace a me è ricreare le condizioni di isolamento, quindi sufficientemente lontano da terra o dalla civiltà per perdere le sicurezze che ci portiamo presso, proprio la terra dal mare, la terra rappresenta una sicurezza. Ecco, quando vengono a cadere le sicurezze inizia il vero viaggio. Quindi allontanarsi e capire che sostanzialmente qualunque viaggio può diventare, se vissuto con coraggio e con insomma, profondità, può diventare un magnifico viaggio introspettivo. Ecco, tu hai chi ti aspetta a casa quando torni? Tu hai famiglia, moglie, figli? Io ho una moglie, Francesca, l'ho sposata nel 2007, pochi mesi prima di partire per la traversata del Pacifico, e ora da 8 mesi mi aspetta anche una piccola bambina, Sofia, che è la nostra primogenita, e quindi sì, ho una famiglia, poi ho un genitore, ho mia sorella, ho degli amici che comunque di volta in volta non vedono l'ora che io ritorni. E questo, il fatto di avere comunque persone che a terra mi aspettano, mi fa tanto desiderare di compiere il percorso il più rapidamente possibile, ma non mi fa neanche mai dimenticare che la mia vita non è solamente navigazione, ma è anche condivisione, prima di tutto con appunto gli affetti familiari, quindi cerco sempre di mantenermi anche insomma avere ecco responsabilità su quello che faccio. Come ti vengono in mente queste imprese? Come le scegli? Come le immagini? Ah, guarda, non sono io a scegliere loro, sono loro che scelgono me. perché avessimo fatto questa telefonata 5 anni fa solamente, forse nella mia vita non avrei mai neanche potuto immaginare una traversata in mare, tant'è che io appunto sono valtellinese, quindi sono molto radicato in montagna. Il mare mi ha scelto come un po' una vocazione, è capitato tutto all'improvviso, quel tanto che basta per dire ecco, io è lì che voglio stare, bastano uno scambio di parole con qualche navigatore precedente o persone che semplicemente vanno a vela in mare, per capire anche dalle loro emozioni, dalle loro parole, dai riflessi dei loro occhi, per capire che c'è qualcosa là che mi sta aspettando. Allora mi metto alla ricerca, faccio di tutto, programmo il viaggio e mi addentro in questa natura a volte ostile, ma soprattutto ignota, perché io appunto non lo conoscevo, perché la fiducia di trovare il giorno la risposta a tutte le mie domande. Poi spesso non si trova la risposta, ma è proprio è l'atteggiamento del viaggiatore che si fa domande, che bello. Capisco. Allora Alex, ti chiedo in sintesi, per chiudere, qual è una dote che secondo te bisogna avere, a parte la pazienza, la fiducia, una dote fisica o mentale? Allora, dote fisiche... Poche doti fisiche, anche perché sì, la preparazione potremmo sicuramente includerla, ma per me la tolleranza, la frustrazione è la cosa che è indispensabile, senza la quale uno rinuncerebbe dopo la prima tempesta, dopo il primo brutto tempo. Ecco, bisogna sapere reagire alle avversità. Assolutamente, sapere agire all'avversità, così come si fa nella vita quotidiana, non bisogna attraversare un oceano per capire quello che sto dicendo. Ognuno, ed è questo il bello delle mie avventure, ognuno trova nella mia avventura la propria avventura, ognuno ha il proprio oceano da attraversare, quindi ognuno di noi potrebbe essere protagonista di belle, grandi, epiche avventure. Va bene, noi ringraziamo Alex Bellini, ricordiamo il suo libro Il Pacifico a remi, i miei 300 giorni da solo sull'oceano. Sulla strada ci sono solo io, circondato dal deserto attorno a me. Il silenzio taglia tutta la città, grande spirito mi chiama dai falò. Quando noi parliamo di solitari e di viaggiatori solitari, non possiamo non pensare a quello che ormai è un amico di Giro di Vita, visto che ogni tanto lo sentiamo per sentire come va la sua impresa. Ilario, pronto? Ciao a tutti, ciao Achille. Allora, io lo ricordo sinteticamente per i nostri ascoltatori: Ilario ha un sito, lì dove potete trovare tutta la sua storia, che è vespanda.com. Però io sinteticamente vi ricordo che lui è partito, ha messo da parte i soldi, ha progettato tutto per bene, perché è partito con una Vespa del 1970 con l'idea di fare il giro delle tre Americhe, dall'Alaska fin giù in Brasile, in Cile. Ilario, a che punto sei? Adesso mi trovo a metà del cammino del mio viaggio, sono in California, a San Francisco per la precisione, dove ecco. Mi sto fermando da 2 settimane, 3 settimane più o meno. Quindi tu sei partito, ricordiamolo, da solo, e parte del viaggio sì. È stata abbastanza solitaria. Parte del viaggio, diciamo che adesso qua è un po' una cosa inusuale, perché sono una grande città e sto conoscendo parecchia gente. Però ti dico, da New York, da dove sono partito, in Alaska, e dall'Alaska fino ad arrivare qui, spesso e volentieri facevo migliaia di chilometri da solo, quindi giornate interamente in solitaria. Si trova il famoso se stesso che tutti inseguono, stando delle giornate da solo sulla strada? Sì, no, ti assicuro che quello che in pratica si fa, o almeno che io faccio stando da solo in viaggio per ore e ore su una Vespa, è pensare molto, perché comunque sia, vabbè, ascoltare musica, e comunque sia hai molto tempo da dedicare a pensiero, cose che a volte nella vita quotidiana non si riesce a fare per mancanza di tempo. E se pensare molto vuol dire anche conoscere un po' se stessi, o conoscere un po' parte di se stessi, che non si sapevano, forse sì, allora sì, conosco, sto iniziando a conoscere anche me stesso. Senti, quando uno pensa al partire in solitaria, pensa sempre a tutta una serie di cose che di solito frenano, e se mi succede qualcosa, se c'è un problema, se c'è un momento di sconforto. Tu hai avuto qualche momento di questo tipo e come l'hai superato da solo? Guarda, se posso dare un suggerimento, se qualcuno vuole partire in solitaria o pensa di fare un viaggio del genere, si faccia prima una gavetta, in quanto io non è che sono partito adesso un anno e mezzo in solitaria da punto in bianco, così. Ho fatto diversi viaggi, magari solo per un mese, da solo, e ho capito che poi viaggiare, ho imparato a viaggiare da solo, e ho capito che viaggiare da solo non è poi una cosa così paranormale o difficile, o almeno per quanto mi riguarda. È ovvio, come tutte le cose, bisogna impararla a viverla piano piano. Io onestamente viaggiando in solitaria non mi sono mai sentito solo, può essere paradossale, però ti dico, a parte conosco parecchia gente anche in mezzo al nulla, è ovvio che qualcuno lo conosce perché sei più portato a conoscere le altre persone, però la gran cosa che secondo me si ha quando si viaggia in solitaria, secondo me la solitudine è la cassa di risonanza delle proprie emozioni, delle proprie sensazioni, nel bene e nel male, quindi riesci a vivere delle cose che magari in gruppo non riesci a vivere, nel bene o nel male, cioè la libertà che vivi è amplificata se stai da solo. Grazie anche a Ilario Lavarra, allora è buon proseguimento. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. 800240024. Oh, stavo leggendo un messaggio che ci ha mandato Antonio, che ha scritto: non trovi che i tuoi ospiti siano sempre persone particolari? Sì. Però sono umani, e questo, insomma, sono particolari ma non irraggiungibili. Carolina, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Eccoci, Carolina, tu hai vissuto un periodo da solo? Da sola? Beh, allora, vivere da sola certamente sì, da molto tempo, vista l'età. No, ma dicevo in solitudine. No, in realtà sono appena tornata da un ritiro di meditazione silenzioso. Sono stata negli Stati Uniti, in questo centro che si chiama Insight Meditation Society, a praticare meditazione di mindfulness o di consapevolezza per 10 giorni. Ci sono tante altre persone con te che fanno questo percorso, sei guidato da un paio di insegnanti, però in realtà stai in silenzio per 10 giorni osservando quello che succede nel corpo, nel cuore, nella mente, e cercando di conoscere meglio come funzioni. Cioè, stai in silenzio 10 giorni? Cioè, io non riesco a stare in silenzio nemmeno mezza giornata. Non c'è mai quella cosa tipo il gioco del silenzio che a un certo punto uno dice: no, aspettate, no. No, in realtà tante volte noi pensiamo di non poter stare in silenzio, e quando poi in realtà ci proviamo, io sono una molto ciarliera, in realtà ci riusciamo molto bene e scopriamo che in realtà il silenzio poi non c'è effettivamente, perché poi la nostra mente non fa altro che continuare a parlarci, portarci via dal momento presente, raccontarci delle cose. Carolina, ho una curiosità. Carolina, qual è il punto di non ritorno? Cioè, dopo quanti minuti smetti di pensare al fatto che sei in silenzio per forza? Credo che questo sia molto soggettivo e quindi dipenda veramente dall'esperienza personale di ognuno. Certo che le persone che fanno una scelta di questo genere sanno sin dal momento in cui decidono di andare a fare un ritiro così che staranno in silenzio, quindi penso che proprio cambi molto da persona a persona. Generalmente un ritiro di 10 giorni, sia per meditatori esperti che per persone meno esperte, ha comunque i primi 3 giorni che sono particolarmente difficili, perché ti svegli alle 5 del mattino, mediti fino alle 10 di sera, c'è tutta una routine a cui noi non siamo abituati, no, e soprattutto c'è la scoperta di questa mente che va in continuazione, che noi pensiamo di governare, in realtà ce la raccontiamo un po'. Sì, sì, io non penso nemmeno di governarla. Grazie Carolina per questa idea. A me sembrano tantissimo 10 giorni senza parlare. Giuseppe, pronto? Sì, ciao, sono Giuseppe. A noi te purtroppo diamo un minuto per dirci che cosa hai fatto in solitaria. Allora, Firenze-Catania in bicicletta quando avevo 19 anni, ora ne ho 22, subito dopo la scuola, no? 1400 chilometri in 2 settimane rigorosamente da solo. Firenze-Catania? Sì, Firenze-Catania in bicicletta. Una bicicletta che anche quella è stata un'avventura usarla, perché era proprio un modello commerciale, me l'aveva regalata la palestra perché avevo fatto l'abbonamento lungo, quindi, quindi anche gratis. A volte ci dicono che portiamo gente che spende un sacco di soldi e che fa delle imprese costosissime e alla portata di e non alla portata di tutti. Vabbè, noi vi ringraziamo tutti voi che ci avete telefonato, che ci avete scritto, ma anche che ci avete ascoltato in silenzio e in solitudine. Io non sono solo perché sto con voi e sto con Valerio Rocchetti alla parte tecnica e Gloria Correa che mi assiste, e torneremo domani con un altro giro di vita. Statemi bene. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.